volta ne abbiamo fatto di fantine. Poi si modificavano i freni alle macchine, si modificava tutto, abbassava, perdevano un baricentro, la macchina diventava pericolosa, però siccome era una sportiva, corri era pericolosa, adesso non ne abbiamo più voce, già ne ho fatto un aereo, un corso in macchina, con la superintendente era preparata, ho anche ribaltato una volta, facendo però, lo sterrato era preso un avvallamento, si è sollevato, come ha picchiato in terra si è rivoltata la macchina. Insomma, avevo anche 24-25 anni, se dovevi guardare, lì si inciucciato, lì. Anche 127 ha avuto bruco. 127 ne ha avuto 3. Io ho 2, una diesel e una normale. Il 900 normale che ti camminava, faceva uno spunto al semaforo, bruciava tutto. Ha avuto la prima serie, quella col cofano sollevato, no, quella proprio la prima. Poi ha avuto la 127L, che è questa qua di cui ti sto parlando, quella elaborata, 127L, la lusso, bianca, e poi avevo comprato la super, le ultime 127 che hanno fatto erano 127 super, che erano tutte belle dentro, si dire belle imbottite, e poi quella la 127 bianca. Avevo versato, avevo comprato la 127 Super, questa rossa. Invece la 1 col motore 1007, l'avevo regalata a Aldo, che poi non so se l'aveva versata o l'aveva demolita. Infatti io non gliela volevo neanche dare, dicevo fai attenzione a questa macchina, che è un piccolo giocattolino, ti fa accelerare troppo. No, Aldo l'avevano rubata all'ospedale, mi sa, che è uscito con una collega, me l'ha raccontato tu, è uscito con una collega, questa collega ha detto ma lo dai un passaggio, va a pigliare la macchina, non verrà più. Sì, beh, ne hanno rubato 2 o 3 Aldo, una l'ha trovata attaccata agli alberi a Platamona. Un'altra uno, gliel'hanno rubata una ventina d'anni fa, non ne sapeva più niente. 2 anni fa gli telefona un tipo da un deposito di macchine, di queste macchine sequestrate, no? Un deposito che ritiravano queste macchine, e gliel'aveva portata la polizia in consegna 20 anni fa. 2 anni fa gli telefona questo tipo, gli fa guardi che qua c'è la sua macchina parcheggiata, deve ritirarla, deve pagare non so che cosa. Ha detto ma che macchina? La 1, ma ce l'hanno rubata 20 anni fa. Beh, dentro questa macchina c'erano i documenti, il libretto, tutto. La polizia ha ritirato la macchina perché non so dove l'aveva trovata, forse incidentata, l'ha portata in questo deposito e gli hanno telefonato dopo 20 anni. La macchina era una massa di ruggine perché è arrivata 20 anni fuori in questo parcheggio qui vicino a Predanieda. Alla fine gli ha detto andate ammazzate e vi mangiate la macchina, no? Un ammasso del rotam. E volevano pagare il parcheggio. Sì, me l'aveva detto, sì. Dice che te l'avevo di 20 anni. Mi avvisano, potevano avvisarmi quando l'avevano trovata, allora sarebbe stato diverso. Ma infatti lì la colpa ce l'ha prima di tutto la polizia, perché la polizia ha il dovere, deve intracciare il proprietario. Intracciato il proprietario, se l'hai messo in deposito col carro attrezzi, quello se la ritira. Ma tu la puoi consegnare a un deposito e non comunicare all'utente che è stata ritrovata la macchina. Per cui lì c'era una responsabilità da parte di quelli, e da parte di questo depositario che si è tenuto la macchina, l'hanno buttata lì. Quando era una massa di ruggine, l'hanno detto di andare a tirare la macchina. L'hanno detto, ma niente, vedi che c'è la macchina là. Bro, lui c'ha tutti gli interessi, più c'è la macchina e più deve pagare. Quindi più ci sta, più la fa stagionare la macchina e più paga il proprietario. Se non veniva più macchina, da una massa di rotta, ma una massa di ruggine, la macchina non ce n'era più. Vabbè, già sono arrivato un attimino qui che mi fermo, 5 minuti a entrare dentro, poi appena mi sono liberato faccio un attimo di quel rex. E va bene, bruda. Cioè sono qua in ascolto, dai, se rientri subito se lo spendo. E ok, e devo pagare un Giuseppe, 10 per trattare un po', dai, ci sentiamo dopo. E va bene, dai, ciao ciao. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Yeah. canale 10, c'è qualcuno all'ascolto. E cos'è che vuoi? No, cos'è che vuoi tu? E tu che hai detto c'è qualcuno? Per vedere se c'era qualcuno ascoltando. Già c'è. Andavè. Ero con Bruno fino adesso, però ha detto che si tratteneva un po' da un amico e che entrava dopo più tardi. E ma io sto per andarmene via, alle 7 mi devo portare giù il cane e poi devo andare. E vabbè, alle 7:30 non c'è più nessuno, prima vi saluto veramente, alle 7:30 tutti sanno. E cosa vuoi che ti dica? Me ne sta passando la voglia a me addirittura, gira gira, mi vendo tutto e boh. E vabbè, Natali, già magari si ripopola la frequenza, che ne sai, è a periodi, boh. Ma mi pare non vi sia entrato più nessuno a me. Ogni tanto accendo, però non c'è mai nessuno. E anche io la sera attacco l'antenna, faccio tutte le cose, porto l'antenna giù, tutto quanto, l'attacco e non c'è mai nessuno. Boh, chiamo, non risponde nessuno, magari c'è la gente e non risponde, non lo so. Ma che vuoi che ti dica? Tanto. Se continua così non entro più tanto. Tutti non stanno più entrando, cosa? Marcolino entra ogni moglie di babba, quando si lamenta, insomma non c'è più nessuno. Ma Marco, c'è anche il problema della madre, se non può entrare non entra per quello, perché se no già entra. Se la madre è tranquilla già entra. Oh, yeah. Non c'è più la voglia di prima, boh. A me già mi è rimasta sempre, io accendo, sempre controllo a vedere se c'è gente, mi piace, se poi ci sono questioni interessanti, per dire l'altro giorno vi stavo ascoltando di mattina, non sono entrato perché c'era una persona che non mi andava, quindi non ci sono entrato, però vi stavo ascoltando, capito? Io ho capito. Ed era interessante il discorso, dai. Meno male si stava parlando delle cose di adesso, dai, del momento in cui siamo. Ci sono anche delle notti che parlavano di cose interessanti, si facevano discorsi, poi adesso non ho più sentito manco a Gavino. Gavino prima entrava di notte, adesso che c'ha lavoro ed è occupato per quello, ma dice che c'è Mengoni a Valle d'Uria per il 25 di aprile. Cazzo, sono andato a fare una commissione oggi. Quando sono arrivato al coso non potevo manco guidare del dolore che avevo. A prendermi la macchina sono andato al garage, mi è venuto questo dolore alla gamba. Oi oi oi, col sinistro stavo frenando, perché non mi è passato il dolore, guarda. Natali, ma tu ti devi decidere a fartelo fare questo lavoro che ti devono fare, puoi risolvere il problema, perché devi soffrire, boh. Cosa puoi risolvere? Se no, a beso mio non mi rubo ne va, a chi mi ha fatto guidare uguri, e la mafia sicuria. Ah, non te lo possono fare, più di uno non te ne possono fare, così. A beso mio di no, cosa vuoi ti dire? Se no me la viene già fatto. Certo. Vanno la giubuccia tutti le ecografie, tutto canto, degli arti, qua. Cosa non ha giù fatto? Sono sempre ben divisi, mamma mia. Adesso devo fare. L'altro giorno non te l'ho detto che ero dalle 5 del mattino per farmi quegli esami, manca a pagamento me ne facevano. Mi erano infatti a rubare la torrosa, però a ritirare alla diondizi, a ritirare i gosi, li deferti. Più cazzo. Ragazzi, devo fare un'ecografia che mi hanno trovato un nodulo surrenale, mi hanno trovato, devo fare un ecoaddome e poi andare a Tesi a portare tutto a quella dottoressa lì, boh, non so più cosa va. E quando comincia a uscire, mamma mia, a me, quando il diabetologo mi fa fare un bel visit e mi bida, la malinconia mi bida, perché poi devo stare a prenotare, a fare, oh, ogni volta devo stare attaccata a quel telefono, tentando sempre se mi prendono o no, se riesco a prendere la linea, cioè no, perché la linea è sempre occupata. Cazzo, se l'altro giorno mi veniva quel dolore che mi è venuto oggi, non avevo fatto nulla. A chi mi ero dovuto di prima, fai forza. Ti sto dicendo, a canto vi raggiungate a fare questa commissione, che non mi potevo rifiutare, se no non avevo fatto. Oh, yeah. Guarda, un dolore allucinante proprio. Natalia, così è. Io per dire non sono andato alla messa di mia madre perché non riuscivo a camminare, e non ce l'ho fatta, ad andare. È inutile che andavo lì per soffrire, per stare a dolori forti e non poter stare in piedi, non potevo stare. Se addirittura mi avevano invitato ad andare a pranzo da un amico, un paio di amici, oggi non ci sono potuto andare perché dovevo fare quella commissione. Purghissimo, ma giù messo. Ti sto dicendo, guarda, non ve ne vai a dirlo. Oh, yeah. Lo so. E tu prova a punzecchiare, a dirlo, ma non si può fare niente, diglielo, fagli la tua domanda, se aspetti che ti chiamano loro, oi. Tu dici, ma non si può fare niente, io sto soffrendo troppo con questa gamba, non si può fare questa angioplastica. E infatti, oh, vi lo dico, no, non ne posso più, non ne posso più. Questa cosa di non poter camminare, cazzo, oggi proprio mi è giunto voce. Anche in macchina mi è passato, mi. Cazzo, a da voi quando un nero durrende ha cominciato a leggere i gassi, e boh. Ma se no, quando sono andato, guarda, non ne potevo più dal dolore. C'era mia moglie, non voleva credere ai suoi occhi com'ero. L'unica cosa è quando tu vai, glielo dici, io voglio sapere se è possibile fare questa angioplastica perché io non ce la faccio più, mi stanco camminando, mi fa male, non riesco più a camminare, glielo dici chiaro e tondo, così loro ti daranno una risposta sicura, ti dicono sì o no, però se tu aspetti che te lo dicano loro, oi, cappacavallo, Natalia, putti dimmi, io stavo sempre a punzecchiarli, a telefonare all'ospedale per farmi l'operazione, perché a quanto pare io la dovevo fare come prima, appena fatto il pre-ricovero dovevano chiamare a me, invece deve essere che c'era qualcuno incuzzando, non negava da me, non buttaghiscio, capito? E alla fine ho dovuto chiedere un appoggio politico per operarmi, te lo dico chiaro e tondo. Dimmi tu, dopo che siamo arrivati a questo punto, io non ho aggiunto nulla pure, che sono venuti tutti i civili, la di dove si avammi, la di onde si, il piremo che siano i bronti, che si cose di Rosanga, che erano i brocchi uvissi che puria, che sa di diesi. Uff. Perché a parte me li hanno fatti, solo che a ritirare non è che te li danno subito, capito? È quello il discorso. Poi sono esami particolari, non te ne fa nessuno, assassini, sono loro. Cazzo, sono andato al policlinico, a un dino sono andato, a Sant'Ubreddu, nulla, Viale Umberto, a Ruati Dozzi, nessuno me ne ha voluto fare, manca a pagamento, solo là me l'hanno fatto. Il fratello di Liliana lavora lì al centro trasfusione eccetera eccetera, lì all'ospedale dove fanno i prelievi. Natalia, malinconio è andato, sì. A te se devono portare al manicomio, che tu sei pazzo. Ma te l'immagini questo Bruno Ragano, cazzo, rompendo le scatole sta. sempre a me, sempre con me ce la piglia a pugni. No, perché dipende dalla persona, capito? Io vado a Palazzo Rosa, se vai là magari te li fanno lì. Oh, bro, da poco fa ti devo fare un interrogativo, proprio mi sono dimenticato. Quando tu facevi il meccanico, dove eri? Da tuo fratello? No. Io ho fatto 10 anni in un'officina autorizzata al Far Romeo, al Monte, poi in via Gramsci. E via Pascoli, e in via Le Sicilie? No, la Sicilia è arrivata dopo. Nel 71 io sono entrato da Gigi Currelli in via Gabriele D'Annunzio. Dopo, nel 1980, siamo trasferiti in via Le Gramsci. Ah, ecco. No, io pensavo che ci fosse solo Rusteddu, della Far Romeo, che faceva le macchine anche della polizia. No, quello dopo. Rusteddu non aveva autorizzazione, era un'officina che lavorava e lavorava anche bene sull'Alfa Romeo. Poi, più avanti, tanti anni dopo, aveva preso la concessione anche lui. Ma mi pare che gliela avessero data, perché a Sassari non potevano esserci, mi pare, più di 2 officine autorizzate. Allora Gigi Currelli, il mio principale, aveva mollato l'Alfa Romeo e aveva preso la Lancia. E a quel punto mi pare che Rusteddu aveva preso la concessione, l'autorizzazione della Far Romeo, no? Perché prima non ne aveva lui concessione. E adesso tuttora ce l'ha, adesso è Viale Porto Torres, si sono trasferiti, però fa sempre al Far Romeo. E Viale Porto Torres è dove? Non dove c'è Silano, sono? Vicino a cosa? A quello del Ferrovecchio lì. Perché a Sassari, quando ti sto parlando io, dal 71 al 79, al 78, fine 78, dai. Allora c'era la motorauto che vendeva le macchine, poi era via Porto Torres, dove adesso c'è Silano. E poi c'eravamo noi, autorizzato a Far Romeo, però poi aveva preso la concessione anche lui, siete bravo comunque. Aspetta, io le portavo tutte le macchine, le ho portate anche l'850 e mi ha detto che era un orologio, dice, ma tu dove la portava tuo suocero, perché me l'aveva data mio suocero l'850? E io gliel'ho detto, da Musa la portava. Io ero grido, dice che così, un orologio questa macchina, non c'ha nulla, è perfetta, è il motore che gira come un orologio, ha detto. Ti ricordi che poco fa stavamo parlando del mio amico dell'officina? Visto che tu adesso hai nominato Musa, io non te l'ho detto poco fa, Giuseppe Burco era il meccanico di fiducia di Musa, ma di Pasqualino, quello che faceva le corse. Ti ho detto poco fa che mio amico era appassionato di corse, era l'operaio di Musa. Ho capito, sì. Vabbè, dai raga, io vi saluto che devo portare giù il cane e poi devo andare a fare una commissione, dai. Ci sentiamo magari dalla macchina verso le 7:30, se ci siete. Ciao. E io sto salendo, adesso sono qui a Lata Dolce, sto salendo a Monte Bianchino, me ne vado così mezz'oretta se sento gli amici, perché magari mi sentono meglio. Mi prende Natali. Ma ti sentono da tutte le parti, non c'è bisogno che sali a Monte Bianchino. E io salgo sempre là, perché la prende bene, molte volte anche c'è gente che magari mi sente basso. E adesso sono qui a Lata Dolce, magari se ci sono gli amici dell'Alta Dolce l'ascolto, anche quelli del 23 magari mi sentono anche, perché molte volte mi sentono basso, allora me ne vado lassù. Ah, così è. Ma io ti intendo pure va. Ti intendo sempre, non ti ho messo un attimo. E ok. Quella antenna la sto usando, quella che ho visto l'altra mattina. Adesso sono alla ricerca dei PL, quelli di Bacchilitta, perché quando faccio quel spezzone là di quel campo che mi ha dato l'amico, voglio mettere quei PL buoni e poi li metto all'antenna di casa, questa qua gli devo cercare altri 2 PL. Adesso sto usando quello di ancora l'altra mattina. E funziona bene, anche quell'antenna è buona. Adesso me li ordino un po' di PL, ne avevo ordinato 10, mi erano tutti consumati. Ascolta, ma dimmi una cosa, queste di Bacchilitta dove si trovano? Non ce n'è qua, in continente, bisogna farle arrivare. Beh, non possiamo fare un ordine, intanto c'è anche qualche altro amico che gli servono queste PL Bacchilitta, ne ordiniamo un po', ce le dividiamo. A me servono, perché questi di plastica, per carità, ma poi gli appena appena saldatore e te rimane in mano. E a me ando a dirlo, già lo so guia, bru. Ma fa fare loro ordine, molto ci vuole. Siamo d'accordo, chiediamo a quegli amici anche se non ordinare 10 piene, non sto alzando, ma facciamo. Adesso questa antenna qua sta funzionando bene, c'è quel piede di plastica, lo lascio così, che non so, piede migliore, così da, perché due li ho trovati interiore dell'altra antenna, due piele di quelli che c'avevo, dei vecchi, di Bacchilizza Nera che faceva il gruppo negli anni 70, quelli lì, e poi ho comprato questi che mi ha dato Fusaro. Per carità, mi ha dato un cavo sottile sottile, è una specie di RG58, ma non è RG58, è più sottile, non ne serve a nulla. Cattanino Fiorellino. Cappa, ho capito, ciao. E cosa vuoi ti dica? Ma sta a farlo l'ordine, chiedi, aiuto, chi lo vengo in pressa, vedi che mi ribiglio io. Chi è l'altro amico che è entrato? No, io sono in Cina direttamente. Chi è? Luca è. Ma è strano perché tu sei stato molto forte. No, non so, una 38 questo portatile. No, no, io sto usando una Ferrari. 180 in prima. Ah, beh. Su, cambiamo, su. Oh, fa fallì. Rigido. E chi è questo? Ehi, l'amico mio, Emanuele, questo è. Brigido, mica c'è Bruno Uragano qua. Sì, non mi ascolta a me, Uragano. Buonasera a tutti, Ascoltato l'hai, Bru? Sì, già l'ho ascoltato, sì. Molto, molto bene. La seconda antenna di gomma, hai visto? Con l'antenna di gomma. No, io sto usando... un dipolo in macchina ho messo, un dipolo sopra la capo ho messo, 2,75 pedala, va bene. E l'antenna mia di caucciù bene va? La mia di bambù. Non arrivi nei 40 gradi del chiuso di sciugli. Dove sei, Uraga? Adesso sento basso. Uraga? Bruno, non lo senti adesso? Ha detto dove sei. Adesso mi sono allontanato, stavo sentendo benissimo, l'ho sentito adesso, ma molto, molto basso il basso. Bruno? Sì, ti sto sentendo un po' del QR, no? Hai passato il segnale, adesso mi trovo, sto salendo verso il ponte nuovo che c'è per andare a Nuove Sole. Ah, ho capito, guarda bene. Ma prima le macchine? No, a casa è solo che c'ha l'antenna nel balcone, c'ha, non ce l'ha sul tetto, è per quello, capito? Io qua lo sento a bomba, Brucchi. Sì, è entrata, arriva a fondo, è entrata, si è abbassato il segnale, poi infatti per corso mi sono arrivato a macchina, a poco fa mi è arrivato forte, poi di colpo ho sentito il segnale, si è abbassato a livello di QRM. E che vuoi che te dica? Sono vicino a Monte Bianchino, adesso cerco un posticino, mi parcheggio. No, attendi, ma lui da dove sta modulando? Da Lima Delta. È strano, eh? È caspita. Infatti, poco fa quando ero giù, verso il monte l'ho sentito sparato, ecco perché, adesso mi sto allontanando. Adesso mi sono arrivato qui vicino a Monte Bianchino, lo vediamo se lo sento meglio. E c'ha un'antenna di macchina nel terrazzino, lui lì, capito? Infatti c'è questo signore che va che viene, Bruno, aspetta che mi metto un po' di acqua all'antenna. Beh, vabbè, ah, sei arrivato sparato. Mi sarai. Emanuele, adesso sei arrivato sparato adesso. Perché è onda confusa quell'antenna. Cosa lui? Perché è onda confusa l'antenna di Emanuele. Ah, per quello, è perché si confonde nel confondersi. Confondendo, esatto. Sentito Ebru, ha detto che Emanuele c'ha l'antenna a onda confusa. Può capitare, c'è tutto rovesciato con l'antenna. Ma poi un 6 litri di vino di Sabino, non sta lì, non sta manco di cuccia con gabbi, sta lì. Rigido, bene stai? Benissimo, benissimo. Mamma mia, come sto? Oi oi oi! Adesso sta a nuovo il segnale, adesso lo sento tutto bene. Ma dinchi mi brua, Roma cuba vedemo. Adesso lo fermo, ho buttato pure la macchina lì, l'ho guato. Oh no, mamma mia, come sto? Ah, io so che andiamo. E perché ti porta anche a te dove volevo mandare a Natalino poco fa? E dove, e dove? Cosa fare di analisi, io ti volevo andare a Manicuri. Così è Natalino. Attilo con pareggia Bruno Manuè. Natalino, ma quell'amico non entra la sera, non sta più entrando. Ehi, già entra, verso 7:30, 7, già entra. No, però lo sparate, c'è una villetta qua, c'è una casa qua vicino. Io sono curioso qua. Mi stanno sbagliando. Mi dire no. Non è che ti sei venduto fuori a rubare il televisore, ma ti culo una fusilata, chi sono? Faccia tutto. Baita, baita. Io ci ho pensato durante la macchina. Non si sa mai, tu cane. Infatti. Che ci sono i federati lì in quella zona. Ah, sono anche ci rubati lì no a Bruno. E da voi si canta la canzone, non c'è più niente da fare, no? Ora me che ti vado nell'allaccio. Vabbè Natalia, tu la prima volta, poi se ci prende gusto, se ti piace. Non ti devo cagare i gruppi. Oh Bru, non è canto di dolore ma canterò per i gittori. Ma solo quello mi manca, tutto il resto c'è. Quello mi manca. Non dire che compare già a casa Monte Bianchino la butta. La giornata è presa l'altra, non si è messa la canta. Ancora è giorno, no? Molte volte vengo, durante il periodo invernale vengo di notte, a quest'ora è già notte tarda, magari in questi giorni di campagna quando sono macchina entrando, perché già magari faccio una carica in coppietta e io mi bacio fa, allora va, mi è passato un piccolo, quello lì, ha detto che fai niente, ha passato un partito di gaida. E li metti la portante alle coppiette. Non c'è nessuno, qua è la coppia, non c'è nessuno, c'è la campagna. Ma io sento gente volando sotto. La propagation, è la propagation. Ma adesso qua sta bene, si deve, sta bene, sta Natalino gli portava le donzelle e gli faceva provare il microfono. Tu lo sai. Devo dire Natalino, un preficcato era. Anche tu lo sai. E con le calette. Su che andiamo, su! Su, su! Manuele Zargava a Stefania. Mamma mia! E fai la mia ombra! E la mia arrivi allo zio. Minimi! Adesso canta la fea. Ma se ti interessava la bottega del babbo, e allora? Natalino pure la conosciuta, cos'è? Oh, la conoscia? Sì. La conosci Natalino? Ragazzi, la menta, boh. Si lo dici tu che abbo da si dici. sto a fare la biopla, cazzo mi era appena inventato con l'ira, infatti mullavano, ma era su sì, infatti mi pigliava un violoncello, non mullava più, eh. Allora suonava bene. Questa stava al conservatorio. E stato sia un carino di Lucca come ti si impinnava. C'è una luce di Iata, si è attraversato, si è fottito. Veda un carino di Lucca si impinnava una brutta, quando vedeva che è da abusata. Finita la moto addrizzava, così. allora, stai immaginando. No, me la chiudi. Bruno! Ehi, e dove sei? La mi ascolta ancora, sì. Sì, adesso bene, una volta bianchinoso. Ah, ti ascolto bene anche a te, Radio 5, 9 Radio 5. No, va bene, poco fa ti stavo salendo. Prima quando ero alla zona della Tarocchia ti ho sentito molto forte. Poi salendo verso il monte ho perso un po' il segnale. Adesso ti sento bene. Ehi, andale. Oh, Manu. E io lui. Stiamo a mettere un po' di spray a quel microfono, che si intende tutto grattente da uscire. Magari bisogna mettere appena appena di spray. Spray? E che cazzo vuoi con lo spray? Lì nell'interruttore. Capito? E la neoce decide. Tutto il capo gli devi ingrassare, tutto il capo devi ingrassare. Il microfono sta fatto. No, nebuni CRC. Ci sono uguali, ci vuole spray per contatti, non CRC, che il CRC ti ringrassa invece di burittini. WD-40, è già appunto. Ho capito. Giulio, ho sentito. Giulio starà pensando altre cose. A noi è più incendi. Pensando alla spianna sta, ma l'hai tu. Vabbè, messa la lanterna, ma un ragano sul tetto. Non sempre nel balcone ce l'ha. Nel balcone ce l'ha e ce l'ha anche in macchina. In macchina già lo so che sta parlando adesso, ma a casa è sempre il terrazzo ce l'ha. Eia. Andare. Qua, il segnale è buono, non ci penso più, troppo hanno piazzato il pannello solare sul tetto, un casino, insomma, dal terrazzo perché non esci, Bruno? Sì, esco, ma sai, quando hai una boomerang non è che puoi fare più di tanto, non puoi mettere un mezzaletto, non puoi mettere niente. Questi 5 watt, come poi c'è il segnale adesso dalla macchina, più o meno ce l'ha da casa. Che oltretutto c'è un palazzone, c'è uno schermo di cemento armato che non finisce mai lì, per cui l'antenna risulta anche in basso. Manuele? Mica? Se ne ha voluto, mica c'è un ragano. Ciao un ragano. Dai, comunque ti arrivo bene, dai. Adesso sì. E se è messo così, meglio. No, ma è troppo ondulato. Che bellino. Mi ha curato Mi sposto un attimo sul 23, ragazzuoli. Non ho capito, Manuel. Mi sposto un attimo sul 23, ragazzuoli. E fai da bravo sul 23. Che devi pagare la tassa lì. Chi c'è qua, Bruno? Sole lì. Chi c'è, Bruno? C'è Natalino, c'è. Ciao, Natalino. Ciao, Tony. C'è il cagnetto qua. C'è il mio Bruno che c'ha un cagnetto anche lui. Ebbene, Natalino, qua tra banco ho fatto la Eucci. E alle notti mi dico nulla. Sono andato a pigliarmi la macchina. Mi è giunto chi chiude Rori all'anca, Gesù Cristo mio, qua, molto mi sono pulito. Ma almeno fatto lei quello del trabacco. E a quanto ho fatto a farcela, disoccupati che lo prendi con la subiti. Ma non metti mai, ma cosa becchiacca? non mi arriva sangue. Cazzo, so così senti. Wow, me l'ho vista veramente brutta oggi. Sono andata e non capigliammi la macchina a ruota garage. Ma c'è qualche bene altruita. E allora, Gesù Cristo mio, qua non ti ne dico nulla. Ma scusa un attimino, non ti vuoi fare un piccolo intervento e non so, ti mettere un'altra vena artificiale, qualche cosa del genere? No, che basta, ci vuole l'angiografia lì, ci vuole. Basta che me la sturrino e boh, l'arteria. Cazzo, mi sono così senti. Quando sono arrivato in Chivi ho fatto quello che dovevo fare, stavo tornando, ha cominciato a ritargare, manchi in macchina mi è passato, ti so così senti, guarda, non lo posso raccontare, era mia moglie che era pure preoccupata se mi sostia che cosa, a chi lo guidando in un modo, cazzo, mamma mia. Ma poteva fare qualche intervento di San Palla in giù, di San Arteria, avanti brutto. No, è un casino, andata lì, dove andavamo l'altra mattina, c'è quell'amico che abita lì, quello lì c'era da levare una vena messa male, è andato ieri a fare il controllo, pensando che fosse una cosa risolvibile, c'è la costruzione anche lui. C'ha certi dolori lacinanti, adesso gli hanno dato una cura e se no devono vedere perché è pericolosissimo. Già lo so, adesso glielo dico che non ce la faccio più alla dottoressa, adesso finisco queste visite, devo fare, poi porto i referti a Tiesi da quell'altra dottoressa e poi ando dalla dottoressa medico e non ve la posso più, non è possibile. A vedere se mi buoni va che cosa. A me me l'hanno già fatta una al cuore perché ho avuto un infarto, no? Di angiografia. E penso che se loro riescono a disostruire questa arteria torna normale, lo stava dicendo pure la televisione. Cazzo, ma è una cosa che. Guarda, un dolore allucinante ci viene. Ma Natale, io penso che sia buona la sigaretta a me. E senz'altro è purughissu, non è che. Gloria. Ma guarda, è una cosa. Non si può raccontare l'udurore. Me lo posso immaginare. È come adesso 8 anni che non fumo più io. Gloria. Avanti, bro. No, io sono 5 anni che non fumo più. Ho incantato la mente. Io stavo tra il cuore che poi, quando mi hanno entrato al braccio la sonda con la telecamera fino al cuore, ma tu lei fumava e tu sì, complimenti alle arterie pulitissime, e ma intanto non fumo più, fai bene, fai bene. Non è stato il dipeso della sigaretta, meglio dall'assucchio, oggi non fumo più, infatti così non ho più fumato. Sono 8 anni che non fumo più. Proprio il mese di aprile ho già fatto 8 anni. Avanti Natale. E allora? Purvisso è pure la sigaretta che contribuisce. Quella lì io con tutti i problemi che faccio non riesco a smettere. Prima di colpo smettevo di fumare e stavo un po' e poi ripigliavo. Ma vaffanguala, ma non me la posso manca smettere. È una questione psicologica, lei dice non fumo più, se apri le sigarette, non recupera il GBU, Natalia, lo so, devi essere forte te stesso, è più forte gira gira, siete che tu, no, sei tu più forte della sigaretta, quindi se tu non ricopri, non recuperi, non ne fumi. Qui a rimani mi sono arrabbiato, buru, per una tradizione, ma arrabbiato davvero, però mi sto dicendo, vabbè, dai, la che mi appigli. Continuate che devo fare una piccola cosa, mi manca in ascolto, poi già metto subito. Mica, cazzo, io devo anche ordinare le pizze. Non te ne piace, ehi, sto aspettando che venga l'orario, perché mia moglie è andata a fare una commissione e viene verso le 7:30 qua. Infatti io sono da un bel papà che non è video. La giubilata oggi è che non sa più cosa va, ma se no la biglio oggi è bagisso. Oh yeah. In più che c'è un raffreddore non mi può passare più. Boh. E domani non si può mangiare carri in Natalia, lo sai, sì? Ehi, Arusoggo. Domani sono pesce. E così faremo. Ah, quel progetto che mi portano domani, te lo faccio riportare indietro. Sì, portalo qua. Tanto è due atte, oh, Luca. Un pezzo a Eddie, un pezzo a me. Ah, tu, un pochino devo riportare non che altro. Io sono vegano. Pure io sono vegano, mangio solo un gallo. Sì. Io ne mangio poca carne, però, insomma, devo che produce un poco. Così. Ah, io bappacca faccio un'andata di gambarone, così i carri non li mangio. Adesso mezzo agnello, ma a metà lo faccio al giro rosso e a metà lo faccio al integrame. No, non li mangio gas, basta. Sono stufo. Comunque Cata, ho ripigliato il peso, Cata, da 52 quando mi è venuta la pancreatite, lui pesavo 52 kg quando mi sono riuscito a ripilare, e avanti peso 72. Io sono gozzo, Natalio, diabete, ma Gesù, quando lavora male il pancreas è un casino. Ehi, Arusoggo, e cosa vuoi fare? Ma casa, pari uno scheletro quando mi sono riuscito a ripilare. Pure Manuele così. Ancora lì è sciuppato, Manuele. È sciuppato, capito, non mangia nulla. Se non se lo mandavano io oggi, guai, si mangiava tutto. Dalla graviglia ha detto che era niente direttamente. E se no pigli a tempo a punirlo nel rubiato. Giulio è sciopero. Allora c'è gente sulla gente, perché c'è uno che parla con Gio Maria, la figura è qua, non sai. Sì, anche sul 23 c'è ruota la sera. Vabbè, ma sentirmi di strada, come qua, in questo canale, dopo il marchio, c'è un comune crescendo forte. Perché quando c'è Gianni, che sono a casa, c'è solo a due. Un attimo che devo fare una telefonata. Ma io è passato sul 23, un attimo siete a lui, non lo so. No, questo forse da qui un po'. Guarda adesso, va meglio? Chi è che è entrato avanti? Ho sentito qualcuno. Vediamo un po' se mi sente adesso. Chi è avanti? Ma che masoneria ne sono? Ascoltando sul foto, la preparazione, dimmi. Perché abbasso il radio sono? No, sei forte, ma fa questo rumore di fondo incentivo, era molto più accentuato, come se avessi qualche segnamento con una vettura di una capita genere. Ma non ce n'è ventunina. Non si è accesa neanche quella dell'alimentatore ancora. Trascinamento di fondo. Però non è molto fastidioso, perché la radio è molto più forte. Non è lì? Forse senti il riscaldatore, boh, non so, la stufa, in pratica. Non so, no, ma come sento bene? Ma Tonino è andato, Tonino, state voi giù. Ehi, sono passati sul 23. No, poi devo passare a vedere se c'è quel disgraziato di Marino sul 23, non lo sento mai. Sì, vai, vai. E questi che dovevano rientrare, boh. Ma saranno sul 23. Faccio un buon X e passo a vedere se c'è Marino. Via. Beh, tutti i bugini. Luca. Hola. Ciucucciù. Hola. Ciucucciù.